Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di storia con un grande libro di uno storico francese, Edgar Quinet, che visse tra il 1803 e il 1875, di cui Aragno ripropone, ed è un'operazione meritoria, forse il capolavoro, Le rivoluzioni d'Italia, 448 pagine, 25 euro, curato da Maria Grazia Meriggio. Quest'opera è stata forse troppo trascurata, eppure è un'opera importante, molto leggibile, anche perché Quinet era uno storico e politico e quindi animato da una forte passione civile, uno storico e politico che si oppose energicamente a Luigi Napoleone, che poi diventò Napoleone III, e in particolare manifestò tutta la sua opposizione contro la spedizione che Napoleone III aveva deciso contro la Repubblica Romana. Colpo di Stato che fa appunto di Luigi Napoleone l'imperatore, Quinet lascia la Francia, va in esilio a Bruxelles, rifiuta l'amnistia e rientrerà soltanto in concomitanza con la caduta di Napoleone III per riprendere la vita politica, che avrà una durata breve perché morirà poco dopo. Quinet cominciò a pubblicare questo libro sull'Italia nel 1848. Al centro del libro c'è una questione di fondo che in fondo ci perseguita da tanto tempo, e cioè il ruolo esercitato dalla Chiesa nello sviluppo o mancato sviluppo, secondo i punti di vista, del nostro paese. E soprattutto Quinet indaga sul significato della sconfitta della riforma protestante in Francia e soprattutto in Italia. Ma sull'importanza di questo libro sentiamo l'autrice. Buongiorno a Maria Grazia Meriggi. Buongiorno. Maria Grazia Meriggi, lei conclude la sua introduzione definendo Quinet un classico dimenticato. Ecco, come mai è stato dimenticato e caduto nell'oblio, e come mai secondo lei merita di essere recuperato anche alla conoscenza del lettore di oggi? Ma è dimenticato come moltissimi degli storici del suo periodo, che sono storici, come ho provato a spiegare nell'introduzione, che noi oggi leggiamo più come romanzieri, come saggisti, che naturalmente come veri e propri storici documentali e scientifici. È stato dimenticato non tanto come nome in Francia, perché in Francia Michelet, Quinet, Taine sono dei nomi che ancora evocano, ma sono soprattutto non letti. Per questa intreccio di appunto letterarietà, discorso sullo spirito del tempo e sullo spirito delle nazioni, che è assolutamente lontano dalla nostra cultura, ma infatti io credo che non vada letto a primo livello, ma sono autori che vanno letti a secondo livello per capire che cosa hanno rappresentato per i loro lettori. E in questo senso ci aiutano a conoscere l'Ottocento, secolo dal quale noi ancora deriviamo tanti delle nostre categorie interpretative, ma anche tanti delle nostre formazioni sociali ed economiche. Ecco, soffermiamoci un attimo su questo aspetto, cioè della storia, che in quella di Quinet è soprattutto una storia come narrazione. Lei stesso scrive che Quinet è soprattutto scrittore. Questo dovrebbe agevolare la lettura anche dal lettore di oggi di Quinet. Forse del lettore, come dire, colto medio, certo però che non è, questi autori sono banditi dalla libreria, dall'etichetta di storici, scientifici, ma al tempo stesso non sono letterati narratori, sono più saggisti, all'intreccio fra la filosofia, la saggistica, la letteratura. Voglio dire, lei ha presente, non so se per esempio se ha presente quel bellissimo romanzo, secondo me uno dei più bei romanzi mai scritti, che è Il Miserabile di Victor Hugo. Quasi sempre, per esempio nelle riprese cinematografiche, che sono tanta parte, tanto veicolo della nostra lettura dei romanzi, si tolgono le parti storiche. Se lei comincia a leggere il capitolo d'esordio dei Miserables, che è l'incontro fra Salvatore di Jean Valjean e un personaggio che è in realtà l'abbé Grégoire, un po' nascosto. Bene, questa è una lettura che per uno storico è affascinante, ma ha un tale intreccio di elementi dotti, elementi storico-sociali e invenzione letteraria, che per il lettore attuale è un po' indigeribile, diciamo. Quindi sono dei libri che vanno letti nella misura in cui ci interessano i loro lettori, secondo me. E poi c'è un'altra cosa importante in Quinet per noi italiani, cioè il suo rapporto con Mazzini. Alcune analogie con il pensiero di Mazzini. Il punto centrale della riflessione di Chinè mi sembra che sia quella della mancata rivoluzione protestante, riforma protestante nel nostro paese. Allora approfondiamo un attimo questo aspetto. Secondo Chinè, un po', e questa è una posizione ampiamente condivisa da Mazzini, la creazione di una unità nazionale ha senso non per l'abrogazione dei confini o la creazione di un nuovo Stato da altri Stati per combinazione diplomatica, ma se questo significa una rigenerazione della cittadinanza, dello spirito della cittadinanza. In questo senso, per fare un cortocircuito molto rapido, si può dire effettivamente che la cultura del Partito d'Azione abbia preso molto dal mazzinismo e in fondo Mazzini... Lo sforzo di Mazzini è di introdurre nel Movimento Democratico Nazionale una spinta verso la rigenerazione etica che secondo lui, e qui sta l'elemento forse più innovativo e democratico di Mazzini rispetto a Chinè, è soprattutto reperibile negli ambienti popolari, artigianali, urbani, organizzati, che Mazzini conosceva molto bene dalla sua esperienza londinese. Secondo Chinè, una figura che fa un po' da snodo nell'evoluzione del nostro paese o nell'involuzione è quella di Savonarola. Lo definisce un'alternativa fra l'occasione perduta di una riforma morale e religiosa, lei scrive, ovvero colui che ha ratificato l'inizio di una sua lunga eclissi. Ecco, che ruolo ha svolto quindi Savonarola? Savonarola, devo sempre precisare che il Savonarola di Chinè è, certo, ha una parentela con il Savonarola storico, ci mancherebbe, ma non è che sia, noi dobbiamo prenderlo come una innovazione storiografica sul Savonarola che noi scientificamente possiamo ricostruire. Però secondo me è un'occasione mancata perché ha mancato l'eroismo finale, in sostanza. Ha creato una mobilitazione etica di cui peraltro molti storici novecenteschi hanno visto addirittura come Horkheimer una specie di nucleo originario del totalitarismo, dell'osservazione panocchia, dell'osservazione di tutti verso tutti della società, con l'utilizzo dei bambini come controllori dei grandi. Insomma, cioè lui assolutamente rimuove completamente questo aspetto anche nero, che è un aspetto nero del puritanesimo, nero accanto all'aspetto luminoso della rigenerazione morale. E secondo lui, da una parte, Savonarola non ha trovato fondamentalmente una borghesia in grado di assumerne le capacità dure, autopunitive della riforma protestante, e dall'altro lato è mancato in Savonarola, con il tentativo finale di salvarsi la vita in sostanza, è mancata la testimonianza del martirio, anche se il martirio è arrivato, ma non c'è stato questo rigore fino in fondo, ecco, che forse però naturalmente si tratta di figure una isolata dall'altra, che non tracciano un vero percorso storico dell'Italia sociale ed economica. Bene, grazie a Maria Grazia Merigi che ha introdotto Le rivoluzioni d'Italia di Edgar Chinè. Buona domenica. La storia di Chinè, di cui abbiamo parlato, si arresta dunque alla pagina della Repubblica Romana. Siamo quindi alla vigilia del Risorgimento e vi segnalo allora un omaggio all'unificazione nazionale di cui abbiamo festeggiato da poco il 150enario, che viene dalla Svizzera. Si intitola Il canto dei poeti, questo libro, sottotitolo Versi celebri da Dante al Novecento nelle romanze liriche dei compositori italiani, pubblicato da Giampiero Casagrande Editore, che è un editore di Lugano, ma si può trovare anche in Italia. Il libro di 378 pagine qui da noi costa 65 euro, e curato da Sabine Frantellizzi. Nel libro si parte da Dante per arrivare fino ad Ada Negri e vi troviamo alcuni dei versi più celebri, che sono accompagnati in questo libro in due CD da musiche e romanze che a questi versi si sono ispirati. Sono musiche dell'Ottocento e del Novecento e che danno vita anche a un interessante excursus sulla romanza da camera italiana, illustrata da autori importanti come Tosti, Respighi e Dalla Piccola. Ah! Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dopo la storia parliamo di arte. Cominciamo con un libro senza parole di un grande artista, Tullio Pericoli, che si intitola Attraverso l'albero, una piccola storia dell'arte, pubblicato da Adelphi, 72 pagine, 8 euro. Illustrando, anche se il termine non gli piace, un libro di Jonot, a Pericoli viene l'idea, come scrive lui stesso, di disegnare i cambiamenti della forma dell'albero della storia della pittura dal Rinascimento a oggi. E così nasce questo volume, aggiunge, che albero dopo albero ripercorre sinteticamente un tratto della nostra storia e dell'arte, analizzando le forme che la pittura ha inventato per rappresentare l'albero e osservando come l'albero è servito alla pittura. Insomma, dal modo in cui l'albero viene dipinto, naturalmente questo modo è ripensato da Pericoli, si fa una breve storia dell'arte e si parte da Giotto per arrivare a Steinberg, quindi un periodo che va dal 1267 al 1999. Abbiamo una serie di immagini di Pericoli che, con sintesi fulminea e poetica, appunto, fissa in diversi fotogrammi, se così si può dire, le personalità e l'apporto dei diversi artisti. E su Pericoli segnalo il libro di Silvia Balestra, Le colline di fronte, un viaggio intorno alla vita di Tullio Pericoli, è pubblicato da Rizzoli, 256 pagine, 18 euro. Questo è un viaggio nell'arte nell'editoria italiana attraverso uno dei suoi protagonisti, che scopre ben presto la sua prodigiosa capacità di osservare e rappresentare i volti, e non soltanto, come dimostra l'orario di classe che in questo libro è riprodotto del liceo statale di Ascoli Piceno, che è appunto illustrato dal giovane Tullio con le facce e i profili dei suoi professori. Quando arriva a Milano nel 61, Pericoli arriva in un altro mondo, comincia a lavorare al giorno e ben presto diventa un protagonista della vita culturale e sociale della città. Partecipa ai grandi travagli del 68, alla stagione delle bombe, del terrorismo, e nasce il sodalizio con Pirella, che segnerà una svolta nella satira italiana, come spiegano queste righe che illustrano la loro celeberrima rubrica Identikit. Cominciano dunque a uscire su Linus le prime strisce di Pericoli e Pirella. Per anni Tullio ha cercato di proporre a Il Giorno vignette politiche, ritratti satirici di personaggi di primo piano della politica, ma le sue proposte non sono mai state prese in considerazione. C'era un blocco, la satira sembrava impresentabile, faceva paura. Proponevo ritratti di Saragat, Fanfani, niente. La proposta non arrivava neanche al direttore, si fermava prima. Pubblicavano solo le vignette straniere, quello sì, perché non parlavano dei politici italiani, perché in Italia, dopo il fascismo, nessuno osava rimettere mano a quel tipo di linguaggio. È Linus che ricomincia dunque a pubblicarla e ricomincerà proprio dal duo Pericoli-Pirella. Dopo anni di silenzio e di censura, quell'esordio è una vera e propria rinascita, tanto che Del Buono decide di accompagnarlo con un testo di Ranieri Carano dal titolo Satira, anno 1? È il 1973 e quell'anno segna l'inizio di una lunga collaborazione. E a questo punto... Il confettino. Anticipiamo il confettino per restare in tema di alberi con Storia di un albero di Emily Vast, pubblicato da Gallucci, 13 euro. Anche questo è un libro quasi di sole immagini per abituare a conoscere l'albero in tutta la sua grandezza, non solo fisica, ma soprattutto come organismo che accoglie, nutre e muta in continuazione. Ma continuiamo con le nostre recensioni sui libri dedicati all'arte. E vi presento un'altra sintesi, questa raccontata nell'ultimo libro di Flavio Caroli, Il volto dell'Occidente, i 20 capolavori che hanno fatto l'immagine della nostra civiltà. È pubblicato da Mondadori, 234 pagine, 22,50 euro. Caroli ci presenta qui le opere che dominano un periodo di 100 anni, compreso tra il 1889, illustrato dal quadro La notte stellata di Van Gogh, e il 1989, anno conclusivo del periodo preso in esame, ma in realtà l'ultima opera del 63 di Andy Warhol, 30 e meglio di 1. Caroli sceglie appunto 20 opere che a suo parere sono alla base della cultura figurativa del Novecento, e queste opere, ci spiega, fanno parte della dialettica tra l'avanguardia e l'avanguardia del dubbio. Nel Novecento, scrive Caroli, l'avanguardia è diventata la forza trainante della civiltà. ma molti artisti d'avanguardia si sono poi fermati a riflettere. Attenzione, non sono affatto diventati reazionari, ma piuttosto, scrive Caroli, artisti convinti di dover creare anche la tradizione. Hanno pensato in diversi angoli di Europa di dover costruire una nuova avanguardia, l'avanguardia del dubbio, appunto. Naturalmente le 20 opere scelte sono collocate all'interno di un'analisi critica sull'artista che ne è autore, così che il libro davvero diventa una sorta di storia dell'arte del Novecento. E sentiamo dal libro queste righe, dedicate a uno degli ultimi artisti presentati, l'italiano Giorgio Morandi. Voyeur ante litteram, Morandi osserva il mondo. Il fatto che possa vederlo sotto nebbie settecentesche non attenua l'enorme, imbarazzante fissità del suo sguardo. La sua forza di penetrazione, giorno dopo giorno, si direbbe, più vicina al cuore della verità, quel poco o molto di verità che passa attraverso l'organo della vista, che in lui diventa filosofico e totalizzante, come forse in nessun altro pittore contemporaneo. E infine vi presento una nuova collana dedicata all'arte che si intitola Il Punto ed è pubblicata dalla casa editrice Joanne Levi Editore. L'ultimo titolo è Marco Meneguzzo, l'autore, l'arte programmata 50 anni dopo, 76 pagine, 8,90 euro come tutti i volumi di questa serie, e sono comparsi anche di Marco Belpolitti, Camera Straniera, Alberto Giacometti allo spazio, 60 pagine, e di Clément Cheroux, L'immagine come punto interrogativo o il valore statico del documento surrealista, e poi di Luca Scarlini, Andy Warhol Superstar, schermi e specchi di un artista opera di 48 pagine. Sono agili ed eleganti volumetti, brevi monografie su alcuni temi e percorsi dell'arte contemporanea. Uno strumento utile perché, come nota Meneguzzo a proposito dell'arte programmata, che è la scuola che egli esamina, a volte autori o movimenti del recente passato, assolutamente tralasciati nel corso di decenni, possono assumere quasi all'improvviso un ruolo e un'importanza storica impensati. Prima di salutarci vi ricordo che a Roma, alla Galleria d'Arte Moderna, è in corso la mostra Paul Klee l'Italia. Sarà aperta fino al 27 gennaio 2013, è curata da Tulliola Sparagni e Maria Stella Margozzi, e il catalogo è pubblicato da Electa. In Italia il grande pittore venne 6 volte a partire dal primo viaggio che fece fra il 1901 e il 1902, e proprio dal viaggio in Italia, da questo primo viaggio in Italia, parte il libro di cui adesso vi parlo, il libro di Marina Alberghini, Il gatto cosmico di Paul Klee, pubblicato da Mursia, ovviamente nella collana Felinamente, 120 pagine, 12 euro. Al ritorno a casa il 2 maggio del 1902, Klee conclude anche la seconda parte del diario che aveva tenuto e segna il ritorno a casa, notando che ha di aver trovato tutto in ordine, buon letto, pasti senza mance, 2 gatti graziosi, Mitz e Nuggi, grigio su grigio. E questo libro dell'Alberghini, appassionata di gatti e studiosa di letteratura francese, racconta la vita di Klee appunto nel segno dei felini che lo accompagnarono e che, ci spiega, sono stati suoi primi modelli, al punto che se ne vedono nelle sue opere di tutti i colori, di fronte e di profilo, neri, rossi e bianchi. I gatti li ritroviamo dunque in molte sue opere, anche nell'ultimo suo quadro c'è una figura con orecchie feline, in tanti suoi scritti, compresi dei versi e in diverse foto che qui sono riprodotte. Anche i 4 grandi autentici amici di Paul Klee erano essi stessi appassionati di gatti, tra questi l'altro grande pittore Vassili Kandinsky, al quale pure è dedicata una mostra in corso in questo periodo in Italia, Pisa, al Palazzo d'Arte e Cultura, mostra aperta fino al 3 febbraio dell'anno prossimo. Sentiamo da questo libro alcune righe sull'impressione che Klee ebbe dal primo viaggio italiano che aveva fatto con lo scultore Hermann Haller. Il viaggio durerà 8 mesi. I 2 amici toccheranno Milano, Genova, Livorno, Pisa, Roma, Napoli, Firenze. Per ogni città Klee avrà giudizi illuminanti, assoluti. Di Napoli dirà: ci si esalta dalla gioia, si è librati tra sfere splendenti divenute il centro del mondo. Potrei vivere a Napoli meglio che a Roma. La vita è più stimolante, afferra di più lo spirito. Ritornare, essere per qualche tempo un napoletano. Pensiero attraente. Genova al chiaro di luna, gli sembra un sogno che trapassa in un altro. Di Pisa si chiede come mai quella meraviglia di Duomo sia capitato in un buco simile. Trova che Roma afferra più lo spirito che i sensi e odia il barocco. Definisce il Bernini corvo di malaugurio, Gli piacciono le scimmie di Villa Borghese. A Firenze è colpito dalla gaiezza toscana. Per lui Leonardo sarà il sommo della pittura. Davanti agli affreschi di Pompei dirà: «Io avevo intuito questo modo di trattare forma e colore. È per me che fu eseguito, per me è tornato alla luce. Mi sento più forte». L'acquario di Napoli lo sconvolge e tornerà spesso nei suoi quadri. Quegli animali strani, come nati da un incubo, lo incantano. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, e Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.